Pane, burro e rock and roll, sono le 7:30 minuti primi. La nostra astronave è già decollata da 30 minuti e punta dritta verso le 9 del mattino. C'è qui l'Ariele per la puntata 138 della colazione servita a nome pane, burro e rock and roll. Non ho nemmeno ricordato le coordinate, già in tanti vi fate sentire al 335 100 7777. Ma devo assolutamente salutare i primissimi due. Oggi esame di stato per ingegneri qui al Politecnico di Milano. Mister Trombetta, fai il tuo dovere. Paolo, facci sapere com'è questo esame di stato per ingegneri. E ne abbiamo un altro, una strombazzata a mia figlia che oggi ha l'esame di sociologia e ha la febbre. Crepuscoli, lupo, GP. Abbiamo strombazzato i due studenti e stiamo precisi per la seconda mezz'ora di pane, burro e rock and roll. Ne accadranno delle belle. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. Li abbiamo. Cosa avete? Guardi qua, ho tutti gli appunti con i nati del giorno. Ah, nati bene, 27 bene, novembre. Bene. È stato un duro lavoro anche oggi? Sì, un durissimo, uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Certo. E allora noi abbiamo rintracciato almeno 4-5 nati bene. Del 27 novembre. Esultino là fuori tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che hanno a che fare con il 27 novembre. Con chi iniziamo di bello? Via! Con questo, ma non so se si può definire filosofo. Così viene riconosciuto almeno su Wikipedia. Scrittore non so tanto. Nemmeno? Attore sicuramente, in qualche modo un attore corporale. Lei un attore sta parlando di Bruce Lee, che nasceva nel 1940 oggi e purtroppo moriva nel 73. Comunque il 27 novembre veniva al mondo, quindi tanti auguri a lui e alla sua mamma. Sicuramente un rocker certo invece, che nasceva nel 1942, Jimi Hendrix, chitarrista e cantante statunitense, che scomparve poi purtroppo nel 1970, e scopro con molto piacere che è gemello di Fabio Treves. Uè Fabione! Nati nello stesso giorno, sì, il sì, Puma sì, di Lambrate sì. E Jimi Hendrix. Sì. Qualche anno più tardi, nel 1949, nasceva Fabione. Auguri! Auguri, auguri, auguri. Chiudiamo auguri. Invece con un regista. Un grande regista. Perché sui registi diventa mai che un giorno? 1952, mi dica. Chi nasceva? Nasceva Catherine Bigelow. Catherine Bigelow sarebbe meglio dire. Bigelow. Bigelow è un'altra cosa. Vuole per caso ricordarci qualche film? Anche no. Point Break, lo ricordo io. Punto il di rottura. Punto di cottura. No, di rottura. Wild Palms. Una miniserie TV i di palmi quattro selvaggi, ore. I palmi selvaggi, perché si parlava di schiaffi a tutta andare. I palmi selvaggi. Deve smettere. E chiudiamo Strange con Days. Giusto. Perfetto. Giornate strane, sì, come questa di oggi, sì. 27 novembre, che si chiude in bellezza. Qua la mano, qua la mano, dottor Ariel. Evviva il 27 novembre! Lei ha bisogno di riposo, maestro. L'ha notato? E beh, che c'è? Auguri al Puma di Lambrate, allora. Celebrato con questa Amen AC, targata Travis Blues Band. Il buon blues italiano rappresentato dal nostro caro Fabio Treves ogni lunedì ai microfoni di Rock FM per l'appuntamento con Blues Express. Sono le 7 e 42 minuti primi in questo martedì 27, sempre l'augurio di una buona giornata dalla parte dell'Ariele, da parte dell'Ariele e anche del buon Spadino. Puntata un po' strana quella di quest'oggi, iniziata in maniera molto particolare con la presenza nei nostri studi di Carla. Ve lo siete persi? Non avete ascoltato alle 7? Ah, sfortunati voi! Beh, vi ricordo che volendo al termine della diretta, dopo qualche minuto, facciamo dopo una mezz'ora, Spadino? Ti va bene mezz'ora? Sì? Potete riascoltare la puntata andata in onda e quindi anche quello che vi siete persi alle 7 del mattino. Vi dico solo che c'era di mezzo la nostra radioascoltatrice Carla e anche la casseola. Tra l'altro un amico di Ravenna voleva la ricetta della casseola. Riferiremo. Un saluto anche a Monica, a Viola, patente 191, a Joe, contento dei Led Zeppelin. Salutiamo anche Salvatore da Erba City. C'è Rock FM, posso anche fare a meno del caffè. God save Rock FM. A Livorno splende il sole, ce lo fa sapere Lore, che saluta moglie e figlio che ci ascoltano in macchina. Stai attento R75, che commentava, ma cosa sta diventando Rock FM? Le carte, poi cosa? La tombola? Perché credi che non stiamo pensando alla tombola? Per chi ci hai preso per dei novellini? Faremo tutto a pane, burro e rock and roll. Perché l'idea è precisa. Il rock and roll non è più una casta. Non ci chiudiamo più a riccio nel nostro armadietto, nella nostra stanzetta. A pane, burro e rock and roll abbiamo deciso che tutto è rock. E che soprattutto tutto, anche quello più impensabile, può diventare rock solo se ci si mette l'attitudine. Questo è il pensiero base delle stupidate che sentite in questa trasmissione radiofonica, nelle due ore a nostra disposizione. Ne sentiremo altre, vi ricordo, 335-100-7777, sono fondamentali le vostre segnalazioni. Per esempio, ieri abbiamo sdoganato una nuova rubrica che ci piacerebbe mantenere, ovvero la conversione di vostri amici, vostri parenti, vostri amanti, vostre fidanzate che ascoltano altre radio. Ieri abbiamo mandato in onda Niccolò, chissà se sta ascoltando adesso. Lui di solito ascoltava RTL, ma noi gli abbiamo dato la possibilità di cantare una canzone che avrebbe dovuto cantare allo Zecchino d'Oro degli anni 70. Insomma, roba complicata che volendo però potrete ascoltare ancora per qualche minuto sulla nostra pagina myspace.com/paneburro FM. Ma corriamo! Ricordandovi anche giustamente che al nostro numero di SMS ci si può iscrivere anche al corso per diventare musicisti rock con la bocca. Non ne avevate mai sentito parlare, ma guarda un po' te. Hendrix, Santana, Clapton. Beh, loro sono maestri della chitarra. Amici, fidatevi di noi. Voi non diventerete mai come loro, o meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare la chitarra con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare chitarristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta Rock con la bocca. Sì, non perdete l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun, or will it rain? Everybody's having fun, except me, I'm the lonely one. I live in con la bocca, perché nelle regole base della radiofonia c'è che lo speaker non dovrebbe cantare sul brano, è vero, ma nessuno ha mai detto che non può fare lo strumento rock con la bocca, no? È scritto da qualche parte, Spadino, no? Allora se lo so lo faccio. Sfumina Goodbye to Romance, Ozzy Osbourne con quel meraviglioso chitarrista che rispondeva al nome di Randy Rhoads. Ah, quanto gli ho voluto bene quando ero piccolino con le mie prime chitarre, Poi dopo è andata a finire male, ho iniziato ad ascoltare dell'altra robaccia. 7:52 minuti primi, ne approfitto di questi pochi secondi per fare altri saluti. Mi sono accorto di un messaggio che non avevo visto, ragazzi. Luana la hostess, la mitica hostess che si imbarca in quel di Viareggio tutte le mattine su questo yacht gigantesco, lei rocker e chi la circonda no. E effettivamente non siamo riusciti a contattarla settimana scorsa perché sta un po' male, un po' malaticcia. Allora Luana, oh, super strombazzata per te, speriamo di risentirci presto, perché ci eravamo lasciati con la promessa che ci raccontavi storie di VIP, così si faceva anche un po' di gossip, rock sempre, mi raccomando, nel senso che lei è una rocker, quindi ce lo raccontava da rocker la roba, vabbè. Saluti a Ruggero, saluti ad Ale, no, non eri la prima comunque. Avete preso il vizio di scrivere i messaggi dicendo sono la prima? No. Ma i DJ di Cacchio Radio Tokyo sono tutti morti? È un dubbio che mi assale da un po' di giorni, Andrea. Effettivamente Cacchio Radio Tokyo è stato un attimo... Scappi, Garavelli, dove vai? A prendere il caffè? No, perché fai così? Tutti morti. Chi tutti morti? Cacchio Radio Tokyo. Sì. Buon caffè, eh? Ciao, caro. Salutiamo anche il direttore. Cacchio Radio Tokyo, sì, in realtà stanno malissimo. Ma per dicembre vedrai che ci sarà una sorpresa. Saluti a Paolo Niguarda e il bluesman Valerio. Ma corriamo con i Def Leppard. Do you wanna get rock? Tra pochissimo Rogna e Frigo. E poi dopo il film della settimana, Il Grande Lebowski. Restate con noi, si roccheggia! Yeah. Gli umani studiando le scimmie? No, cosa hanno scoperto? Che sono pulciose? No, pensa, hanno provato che è istintivo ostinarsi sulle proprie posizioni anche quando si sa che sono assurde. Frigo, io ti devo fare una confidenza. Mi accontenterei anche delle posizioni più banali e mi ci ostinerei anche. Ma la topina della 27 non la pensa così? Sei sempre arrapato. Sì, guardami come sono ridotto. Anzi no, Frigo, non guardarmi.